Le 6, 21 minuti e 20 secondi, vogliamo dare in breve anche le letture che danno altri quotidiani rispetto a quelli principali, veramente qua bastano i titoli. Allora, il Fatto Quotidiano, Dio, banche e famiglia, nasce un governo di facce nuove e buoni propositi, ma tra i ministri di Monti non mancano i conflitti di interesse, aperta parentesi, passera, chiusa parentesi, e i poteri forti. Oggi il Premier illustra i sacrifici. Dal Fatto c'è anche la vicenda del fatto che è stato manomesso l'ex ufficio del procuratore aggiunto di Palermo Ingroia, dove oggi lavora un PM che indaga su mafia e politica. Sarcastico e divertente comunque il titolo del Foglio: il governo del preside il consiglio di facoltà, onest'uomini per un'operazione politica senza senso e non democratica. Questa è la tesi che il Foglio sostiene ormai da qualche tempo. Il Giornale, i nuovi padroni, governo di larga, aperta parentesi, banca, chiusa parentesi, intesa, l'ingresso in squadra dei Passera cambia lo scenario, vogliono comandare anche dopo il 2013, era tutto scritto, il ribaltone preparato in estate, lo spread sale ancora alla faccia di Monti and Company. E ancora banche, chiesa e atenei, il cencelli dei poteri forti, e poi dal conflitto di interessi ai conflitti di interessi, insomma anche qua la posizione del Giornale sembra piuttosto chiara. L'Unità, finalmente si cambia aria, Monti presenta la squadra, oggi la fiducia al Senato, 16 ministri in prima linea, Napolitano in prima, 16 ministri in prima linea, Passera, Profumo, Balduzzi e Clini, Napolitano soddisfatto, dall'Europa arrivano segnali positivi, Berlusconi si adegua, la Lega contro, e Bersani, abbiamo chiesto una svolta e l'abbiamo ottenuta, ora avanti. Casini che dice ottimo. Da segnalare a centro pagina la foto delle tre donne che saranno all'esecutivo, e sotto il titolo è poteri forti, esecutivo nel segno della discontinuità, tre donne in posti chiave e i rischi, alta tensione sui mercati, la sfida è rinnovare e non escludere la politica. Infine vediamo anche Libero, rettori e banchieri, il governo dei secchioni è il titolo, e la Padania con la Lega barra tutto a nord, varato il governo tecnico, di fatto quasi non si parla del varo del governo ieri o molto poco. Noi adesso, come vi ripetiamo per chi si fosse messo in ascolto solo in questo momento, a causa di una serie di problemi tecnici è cambiato lievemente l'orologio di prima edizione, per così dire, insomma il nostro timing, e adesso quindi ci occupiamo di sport. Un buongiorno Dario Ricci. Sì, buona giornata. Calciopoli fa ancora discutere, come fra poco ne parleremo, ma stavolta la copertina è tutta per le ragazze della pallavolo azzurra che nella World Cup in Giappone rimontano la Germania da 0-2, vincono 3-2 e conquistano la nona vittoria consecutiva e il passo olimpico per Londra 2012. E stamattina si giocano il torneo contro le statunitensi. Il CT Massimo Barbolini. Si realizza, penso, un sogno, perché non dobbiamo nasconderlo, siamo partiti con grosse consapevoli delle grandissime difficoltà, quando si diceva che c'erano almeno 7 squadre che potevano giocarsi questo, penso che sia verissimo, si pensa che probabilmente settima arriva al Brasile, che era una delle squadre favorite, per cui è stato un torneo difficilissimo, e adesso però non è ancora finito, mi piace un po' l'atteggiamento dei ragazzi, poi dopo, tempo per festeggiare ci sarà abbondante. Calciopoli, dicevamo, dopo l'ennesima serie di ricorsi e sentenze, duro attacco del presidente del CONI Petrucci contro la Juventus. Io non ci sto, non ci posso stare a tutto quello che sta accadendo nel mondo del calcio di vertice, basta, non se ne può più. Cioè oggi le pagine dei giornali sono più piene di aspetti giuridici, legali, aspetti sportivi, calcistici. Oggi il calcio di vertice è malato di doping legale. Ferma la risposta del presidente bianconero Andrea Agnelli, che chiede allo stesso Petrucci di convocare un tavolo politico per concertare l'uscita da Calciopoli e disegnare il futuro del calcio italiano. Quello che noi chiediamo deve essere a questo punto il capo dello sport italiano a convocarlo. Noi reputiamo che sia giusto ed equo portare da una parte, per un rasserenare gli animi di tutti quanti, tutti gli elementi che sono emersi dal 2006 ad oggi in relazione alle note vicende giudiziarie. Dall'altra parte concentrare tutti i nostri sforzi per sviluppare lo sport. Credo che l'agenda da questo punto di vista sia giusto e corretto che l'ha detto il presidente Petrucci e che non gli venga dettata in quanto capo dello sport italiano. Intanto in casa Inter, capitan Zanetti apre a un eventuale ritorno in nerazzurro di Mario Balotelli. Sì, un domani, sì, nel futuro Mario può tornare. Io credo che il gruppo lo accoglierà bene, come accolta tutti i giocatori che sono arrivati all'Inter. La quinta giornata dell'Eurolega di basket, bella e sfortunata. Cantù sconfitta 85-83 dall'Ulker a Istanbul dopo un supplementare. Stasera Milano, Partizan Belgrado e Siena, Procom. E per lo sport è tutto. Prima edizione. Sono le 6:35 minuti e 16 secondi. È il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. È 17 novembre, vi parla Daniele Biacchessi. Quarta puntata del viaggio tra i cosiddetti pretacci. Lui si chiama Don Gigi Telatine, è referente di Libera in Veneto, combatte le mafie in prima persona. L'ho intervistato per noi Giacomo Segantini. Quando ha incrociato per la prima volta il tema dell'illegalità e ha sentito il bisogno di operare su questo tema? Ho incontrato questo tema con due esperienze che ho fatto. Una prima di essere prete, che è stata il mondo della fabbrica. Io ho trovato che viene sfiorata spessissimo l'illegalità, soprattutto nell'attenzione, nel rispetto della dignità delle persone, eccetera. Poi, appena prete, il primo impatto che io ho avuto è stato con il mondo di quelli che allora venivano chiamati handicappati. E lì c'erano delle situazioni di ingiustizia palesi, una forma di esclusione dalla società. Spesso erano relegati o chiusi in casa, oppure relegati dentro ambienti abbastanza ristretti. Ecco, e lì ho imparato che ognuno di noi deve fare la sua parte, ecco, con molta umiltà, con molta coerenza, con molta costanza. Ricorda qualche caso concreto in particolare? Abbiamo incominciato attraverso l'ANFAS allora, che era un'associazione di genitori, e abbiamo organizzato un comitato per l'inserimento degli handicappati nella società. E ricordo che subito dopo il 74-75, con i decreti delegati, eccetera, anche dal punto di vista giuridico, i ragazzi, i bambini, erano garantiti all'inserimento della scuola. Un'esperienza che io ho visto purtroppo con i miei occhi è questa, che abbiamo accompagnato a scuola con i genitori, due di noi del comitato, un bambino con problemi, e abbiamo visto i genitori degli altri bambini che li hanno presi e li hanno portati a casa. Poi progressivamente le situazioni si sono modificate, però direi che oggi non è che tante volte, pur avendo tutti questi diritti, trovano delle grossissime difficoltà le famiglie. Lei è coordinatore regionale di Libera, l'associazione contro le mafie. Uno potrebbe pensare che in Veneto non ci sia veramente la rilevanza di questo tema quanto piuttosto nelle altre regioni, magari al sud, ma è veramente così? Oggi più che mai ci stiamo rendendo conto che invece è un problema che interessa l'economia nel suo insieme, l'economia nazionale, e che interessa naturalmente anche noi nel nord e nel nord-est. Credo che le operazioni che sono state fatte in Lombardia ci fanno capire come la mafia sta occupando alcuni spazi, se non dal punto di vista del controllo territoriale, soprattutto dal punto di vista economico-finanziario. E non è soltanto un problema legato alla criminalità come braccio militare, ma per esempio la corruzione, che è l'anticamera della mafia, delle organizzazioni criminali, l'usura, il riciclaggio, l'economia sana dei nostri mercati, tante volte è un'economia viziata da economie mafiose. Era Italia in controluce, torniamo oggi alle 13:30 per la seconda edizione su Radio 24. Le 6:39, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Andiamo a sentire qualche voce di questi nuovi ministri, partendo da Francesco Profumo, nato a Savona, classe 1953, presidente del CNR, ex rettore del Politecnico di Torino, nuovo ministro dell'istruzione, al microfono di Maria Piera Ceci, che per prima cosa gli ha chiesto se lo aspettava. In realtà no, perché ho appena iniziato a fare il presidente del CNR da poco, quindi mi stavo abituando al nuovo ruolo. Ero uno studente presidente, quindi non ho avuto neanche la possibilità di arrivare al diploma, nulla. È stata una bella piroetta quella delle ultime ore. Sì, molto, molto interessante, molto difficile, molto complicata, però insomma spero di riuscire a dare un piccolo contributo. So che è difficile per lei, ma quale sarà la cosa che ha più voglia di fare come prima? Io credo ascoltare gli studenti e i ricercatori. Perché ritiene che sia così importante? Perché credo che sia importante sentire quali sono i loro desiderata, quali sono le loro incertezze, quali sono le loro difficoltà. Quindi andare avanti con il consenso dei diretti interessati, studenti e ricercatori soprattutto. Certamente. Che sono i soggetti più interessati e anche i soggetti che in questo periodo stanno protestando di più, perché soggetti a dettagli mostruosi. Questo è il tema, certo. E purtroppo la situazione è molto complicata. Questo sarà un lavoro che bisognerà pianificare negli anni. Sarà il professor Renato Balduzzi a guidare il Ministero della Salute, non un medico ma un docente di diritto costituzionale, esperto di servizio sanitario, che già guidò l'ufficio legislativo del Ministero alla fine degli anni 90. Sentiamolo al termine del giuramento al microfono della nostra Elisabetta Fiorito. Sarà una battaglia per una migliore qualità, secondo d'altra parte le linee già presenti nella politica sanitaria del nostro Paese. Abbiamo verificato da tempo che più sprechi significano minore qualità. Una spesa maggiore non è indice di una qualità migliore, e allora bisogna andare in quella direzione. Ecco. Che cosa bisogna fare per avere una sanità pubblica e privata più equa e soprattutto più funzionale? Beh, anzitutto che ciascuno faccia bene il proprio dovere laddove è chiamato a farlo. Noi cercheremo di fare il nostro, sappiamo che la stragrande maggioranza degli operatori sanitari fa quotidianamente il proprio dovere, e si tratta di migliorare le regole organizzative che possono consentire a tutti di fare il proprio dovere. Ma pensa di dividere chi lavora nel pubblico da chi lavora nel privato? Bene. Ci sentiamo a tante cose. Così dunque due dei ministri che ieri hanno giurato. Noi ci colleghiamo con Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Mauro, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, con te vogliamo fare il punto. Oltre a segnalare le 25 pagine 25 che il quotidiano oggi dedica alle vicende del governo, alle sfide che ci attendono, abbiamo citato poco fa il fatto che sono stati ripresi i manifesti che aveva fatto il Sole 24 Ore per l'Italia e per l'Europa, vogliamo capire da te che aspettative ci sono sul programma che oggi Monti illustrerà, perché ieri ai giornalisti lo dicevamo, ai giornalisti lui lo diceva, insomma, non parlo prima del patrimoniale, pensioni, che cosa si sa, che cosa sta emergendo? Ma in realtà c'è stato questo gesto che è stato davvero di estremo rispetto istituzionale da parte del nuovo Presidente del Consiglio, che ha detto non do anticipazioni, intendo prima presentare il programma alle Camere, quindi diciamo un'attenzione alle forme che in qualche modo forse può anche marcare una qualche discontinuità con l'esecutivo precedente. Noi, come dicevi, abbiamo provato a mettere in fila le varie cose da fare. Nelle nostre 25 pagine odierne ci sono naturalmente la presentazione dei ministri, quindi con anche le loro esperienze, le loro storie, qualche voce l'abbiamo appena ascoltata. Sono persone che hanno spesso il comune denominatore di essere intervenute per la spesa, con un'attenzione alla spesa, e quindi sappiamo che la sanità ha grossi problemi, ha delle regioni con grossi problemi di spesa, sappiamo che i fondi per il sud sono spesso male utilizzati, che i fondi comunitari in genere sono spesso male utilizzati, e quindi questo sarà senz'altro un altro punto del programma. E poi ovviamente i punti sono quelli che continuano a circolare, le pensioni, ahimè, con questi interventi continui che sarà anche difficile poi negoziare con i partiti, ma anche davvero con la gente, quindi dovrà essere molto bravo il nuovo Presidente del Consiglio anche a spiegare i motivi dell'ulteriore intervento alle pensioni. Non è un caso tra l'altro che abbia scelto come ministro del welfare proprio Elsa Fornero, che oltre ad essere un editorialista del Sole 24 Ore, non so se ex o lo rimarrà, insomma, è proprio un esperto. Dipenderà da lei. Faremo scegliere al ministro, ovviamente. Faremo scegliere al ministro come ministro del welfare. Prima edizione. 6:47 minuti, 13 secondi, ancora con Mauro Meazza, il Sole 24 Ore, per capire da quel che sono riusciti a cavar fuori in questo silenzio prediscorso al Senato, che vi ricordo ancora una volta, trasmetteremo in diretta a partire dalle 13 su Radio 24, che cosa sono riusciti a cavar fuori i colleghi romani dal lato fiscale, che cosa si sta pensando, questa patrimoniale arriva o non arriva? Come puoi immaginare, le indiscrezioni qui valgono davvero poco. Io credo che ci sia la necessità di un intervento in generale redistributivo. È chiaro che tutti pensano alla patrimoniale, redistributivo significa proviamo a, come dire, levare un po' di soldi dove ce ne sono di più e a cercare di farli arrivare dove ce ne sono di meno. La patrimoniale è un totem attorno al quale davvero girano le questioni politiche italiane oramai da mesi. A me sembra che o ci sarà una patrimoniale o ci sarà un diverso modo di approcciare la tassazione, per dire, sugli immobili. Non sto pensando solo al ritorno dell'ICI prima casa, che è un'altra delle cose di cui si parla, ma potrebbero esserci degli adeguamenti. Si tratterà anche di capire come andiamo avanti sul federalismo. Lì c'era tutto un disegno di, appunto, tassazione sugli immobili che potrebbe servire proprio in questa chiave. Vedremo dunque cosa succederà e grazie nel frattempo a Mauro Meazza, naturalmente molto trovate sul quotidiano e anche sui siti di Radio 24 e del Sole 24 Ore. Grazie Mauro, buona giornata. Grazie, buona giornata a voi. Qualcosa avete già sentito nello spazio dedicato alla viabilità, oggi giornata impegnativa dal lato degli scioperi e in particolare su Roma, perché a Roma ci sarà un grande corteo, a quanto pare la città rischia la paralisi. Adriana Fracchia, buongiorno. Sì, buongiorno, il governo Monti si è appena insediato e già oggi i sindacati dei Cobas insieme alla CUB hanno indetto uno sciopero del comparto dipendenti e del trasporto pubblico per l'intera giornata con manifestazioni in 24 piazze italiane, da Milano a Torino, da Roma a Napoli a Palermo. Abbiamo salutato con soddisfazione la caduta del governo Berlusconi, dicono i Cobas, ma il governo Monti minaccia di essere altrettanto omicidiale per salariati, pensionati, giovani e ceti popolari, dicono. E insieme ai sindacati di base in piazza scenderanno anche gli studenti, perché oggi è anche la giornata internazionale del diritto allo studio. Gli studenti sfileranno contro le politiche liberiste e capitaliste del nuovo esecutivo per il libero accesso ai saperi. Come dicevi tu, in particolare sarà Roma la città rischio paralisi, soprattutto sul fronte della mobilità, sia appunto per lo sciopero dei mezzi pubblici che per la manifestazione di sindacati e studenti. Sotto pressione sarà in particolare il centro storico e per alleviare i disagi cittadini, ai cittadini e agevolare la circolazione privata, il Comune ha deciso di disporre l'apertura della zona traffico limitato del centro e di Trastevere. Per quanto riguarda il corteo a Roma, dalle 10 concentramento dei Cobas a Piazza della Repubblica fino a Piazza Santi Apostoli, manifestazione alla quale parteciperanno anche i collettivi delle università che si sono dati appuntamento alle 9 alla Sapienza. E nel pomeriggio, quando Monti è atteso al Senato, un gruppo di manifestanti proseguirà fino a Palazzo Madama, probabilmente per dare vita ad un sit-in. Vedremo che cosa succederà dunque nel corso della giornata. Grazie nel frattempo ad Adriana Fracchia, grazie anche a Viola Bottoni in redazione, Peter Bescapè in regia, grazie come sempre a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia, buona giornata, ci risentiamo tra poco con il giornale radio.